Ringrazio per l'occasione di presentare qualche parola di relazione fra Rosmini e Joseph Maréchal sulla aporia e sul problema fondamentale. È possibile la metafisica? Ma mi scusate che anch'io presenterò questo tema in tedesco, perché il mio italiano è come il mio nome, per un orecchio italiano non ascoltabile. Wenn nachfolgend das Thema Rosmini, tratteremo il tema Rosmini, precursore di Joseph Maréchal. Ciò avviene nella consapevolezza della provvisorietà e frammentarietà. Provvisoria è l'intensità della trattazione del tema, non la posizione di Rosmini nei confronti di quella di Maréchal. Quale precursore, per essere chiamato precursore, si ha in sé qualcosa di provvisorio, ovvero sia che l'altro a cui il precursore viene riferito in qualche modo viene portato come colui che completa. In questo nostro caso le cose non stanno così. Rosmini e Maréchal, infatti, hanno sorprendentemente una prospettiva totalmente diversa nella quale costruiscono il loro lavoro vitale scientifico. Nei risultati però giungono molto vicini l'uno all'altro. Anche lo status questionis era condizionato dal tempo. Se così vuole, erano diversi molti aspetti, sia per la problematica come pure nella valutazione dei problemi. Che Rosmini e Maréchal fossero in maniera sorprendente oppositori, con una consonanza strana contro determinati simili aspetti, è un primo indizio negativo per ciò che unisce Rosmini e Maréchal. Questa comunanza ci interpella soltanto riguardo a questa domanda: è possibile la metafisica? E se sì, dove se ne deve trovare il principio, il punto di partenza? L'indizio dell'unitaria opposizione contro la posizione di Rosmini e di Maréchal è naturalmente ancora troppo poco se si vuole parlare di un ruolo di precursori. Ma qui abbiamo due pensatori a cui ci si sente debitori, ad uno come ad un maestro che va compreso sotto nuove questioni, e l'altro poiché, secondo le sue stesse parole, questo ha operato una svolta copernicana nella filosofia e in questo senso ha trovato anche un notevole seguito. I due personaggi sono Tommaso d'Aquino e il secondo è Immanuel Kant. Ad ambedue Rosmini e Maréchal si sentono debitori. Si è già fatto allusione oggi che dalla comune occupazione con questi due pensatori fondamentali si è determinata in una maniera del tutto particolare, proprio in riferimento alla questione di fondo della quale ci occuperemo di seguito e alla quale vorrei limitare anche le mie considerazioni, si è determinata una indiscutibile comunanza nel punto di partenza, che però non esclude la diversa accentuazione di diversi aspetti. Vorrei riassumere le parti della mia relazione. Primo, il pensiero guida del lavoro Zweitens, principale della loro vita. Secondo, la situazione del problema drittens, del tempo. Terzo, Rosmini und Maréchal im Widerspruch. Rosmini e Maréchal und viertens, visti dall'opposizione che è stata rivolta a loro. In quarto luogo, con la dottrina di Tommaso d'Aquino come filo conduttore e la critica di Kant come sfida ad un punto comune per l'origine di una metafisica come ontologia. Ich komme zum ersten Vengo al primo punto, zum ersten Abschnitt. I pensieri guida di Rosmini e di Maréchal. Es scheint nicht unwesentlich für die Richtung non sembra irrilevante per l'orientamento e il risultato di un lavoro scientifico sotto quale idea di fondo questo si trovi e si ponga. Rosmini, da giovane studente, concepì quasi, cito, il piano di un'enciclopedia cristiana, un pendant alla enciclopedia di Diderot. So fasst Herr Karl-Heinz Menke sein Ergebnis zusammen. Così Karl-Heinz Menke riassume i suoi risultati. Come, questa, come quella che questa doveva partire in maniera induttiva analitica da fenomeni empiricamente percepibili, a differenza di quella però non doveva procedere solo in maniera sistematica, bensì essere un sistema. Poiché per il cristiano e il sacerdote Rosmini la natura pura era sì la base, ma di fatto non il tutto dell'esistenza umana, e perciò la teologia cattolica fa una differenza fondamentale tra natura e grazia, tra conoscenza naturale di Dio e rivelazione, ne consegue che se proprio di per sé non tollera la filosofia, nemmeno la filosofia, scusate, di per sé non solo tollera la filosofia, ma addirittura la esige, con altre parole, la possibilità intima di una conoscenza intellettuale come luogo di un avvenimento teologico e perciò come una cognizione universale sia necessaria che si estende oltre le singole cose e oltre il mondo stesso. Per dirlo con una parola, raggiunge la trascendenza. Perciò per Rosmini non è una contraddizione. Sapere a fianco della teologia quale scienza basilare. A ciò si aggiunge che Rosmini, con questo piano di confronto teoretico, come prete e in certa misura in un coinvolgimento esistenziale, collegava una sorta di azione cattolica per agirvi cristianizzante ovunque la provvidenza lo avesse portato in contatto con uomini oppure le onde dei problemi dell'epoca lo avessero rigettato. Questo aspetto è un aspetto globale che già oggi è stato citato con tutte le sue la sua fecondità letteraria ha acquisito molta attenzione e si rivede anche nei molti degli annali che compio. Colgono molti volumi nell'epistolario completo di 13 volumi. Rosmini, curatore d'anime, teorico della politica, consulente, fondatore di una congregazione, tutte queste attività di Rosmini vengono ricordate in altro luogo. In azione contemplativus, questo pensiero spirituale lo troviamo realizzato come principio e come fatto in Rosmini. La filosofia come amore per la sapienza, a partire da questa duplice prospettiva vitale, non è soltanto una prospettiva intellettuale, ma anche un'attività morale dell'uomo secondo la concezione di Rosmini. Poiché al tempo stesso è dotato di intelletto e di libera volontà, l'uomo è una creatura che comprende la realtà solo dove la conosce amando. L'infinita idea dell'essere nell'uomo cerca il suo equivalente regale affinché la realtà contingente raggiungibile rimandi oltre e si dischiuda, rendendo possibile una accoglienza credente dell'autocomunicazione di Dio. A Rosmini sta a cuore fin dal principio tutto l'uomo. La rivelazione e la grazia hanno come destinatario l'intero uomo, anche quello che ha presente il dominio intellettuale dell'esistenza umana, ovvero sia il filosofo. In questo contesto è molto importante la lettera di Rosmini del 29 aprile 1816 al suo nipote Giovanni Fedrigotti, che studiava a Vienna, e si trattava delle concezioni di psicologia del professore viennese Leopold Rebold. In questa lettera Rosmini interpreta la psicologia di Rebold e dice che quei fenomeni che nascono dalle nostre facoltà psichiche e fisiche hanno come compito di realizzare l'assoluto, e prosegue poi: poiché inoltre tutte queste facoltà sono unificate da un'unica finalità, comprendo tutto come un uno. L'uomo, così mi sembra, non può mai perdere oggettivamente quel valore assoluto, perché non può mai essere privato di quella facoltà di raggiungere quel fine che in lui inabita. Non può essere mai privato di questa capacità che, sotto la forma della verità, è la verità stessa. Alla elaborazione di questa psicologia razionale, a partire da quell'unica radice che al tempo stesso è un'antropologia teologica, Rosmini è sempre rimasto fedele e ha continuato a lavorare. Se posso riprendere il pensiero guida di Rosmini, devo dire che si tratta di enciclopedia cristiana e, quando necessario, apologia, e dalla consapevolezza della grande realtà della grazia di Dio, antropologia teologica, in questo modo si può descrivere l'intenzione e l'intera finalità dell'opera di Rosmini. L'intenzione di Rosmini, avendo presente l'intenzione di Rosmini, ci dedichiamo a Joseph Maréchal e alla sua opera della vita, interrogandoci sull'idea di fondo, sulla forza movente della sua ricerca e della sua indagine. Quella presa di posizione di Rosmini che abbiamo appena citato, che risulta così caratteristica per il suo pensiero sistematico, possiamo estrapolarla e proseguirla oltre. Joseph Maréchal, 1878-1944, il 50° anniversario della sua morte, ricorso l'11 dicembre dell'anno scorso, proveniva nei suoi studi da una tutt'altra direzione alla questione fondamentale della metafisica. Questa impressione si impone almeno a un primo sguardo. In Rosmini osserviamo già molto presto l'impegno di garantire fondamenti, basamenti filosofici, ove non ripudia nessuna, per quanto piccola, occupazione con tesi e opinioni. Maresciallo invece scrive in anni anche avanzati di amare simili dispute sul dettaglio, di non amarle. Il suo interesse si rivolge piuttosto alla psicologia e questo sempre più in un senso onnicomprensivo. Questo dato di fatto può sembrare strano a colui che coniuga col nome di Maresciallo coniuga un'opera così importante e pregnante per tutta un'intera generazione di pensatori come Le Point de départ de la métaphysique. Opera apparsa in 5 volumi, il sesto era solo programmato e non è più apparso per la malattia dell'autore, per la guerra. Questi 5 volumi Maresciallo segue il destino della fondazione della metafisica. Il quinto volume, con il sottotitolo Le Thomisme devant la philosophie critique, è al tempo stesso il motto sotto il quale egli pone infine la sua via risolutiva. Quest'opera vale come tentativo di esporre la storia della questione critica e di condurre a soluzione il problema a tempo stesso gnoseologico e epistemologico, scusate, e metafisico. Ovvero il problema: è possibile la metafisica, e se sì, cosa può essere preso come punto di partenza? L'intera ricerca viene posta su basi tomistiche, direttamente o indirettamente, e dal punto di vista di metodo viene dedicata alla disputa con Kant. Maresciallo non intende la ricerca come una ricerca che presupporrebbe la metafisica, bensì nel senso di una questione che è interiore alla metafisica stessa o che coincide con questa. La sua interpretazione di Tommaso viene in genere caratterizzata come metafisica dinamistica della conoscenza. Con la sua risposta a Kant, Maresciallo ha trovato molti amici ma anche molti avversari. Johann Baptist Lotz in un articolo, e coinvolgendo anche se stesso, parla di una vera e propria scuola di Maresciallo. Eppure il piano di Maresciallo, visto nel suo insieme, era un altro. Egli voleva scrivere una grande psicologia onnicomprensiva. Hayan ha seguito la genesi del sistema di pensiero di Maresciallo e ha potuto rendere chiaro questo piano. A partire dai nuovi risultati, dai recenti risultati della biologia, egli programmava di descrivere l'intero evento spirituale fino alla sua attuazione più alta nella mistica. La vita dell'anima dell'uomo, vista come una realtà integrale nella sua unità, nell'unità degli elementi empirici e metaempirici, grazie a un principio, concepita grazie a un principio. Conoscere e volere non vengono visti come le due attuazioni o facoltà che poi in seguito si aggiungono e vanno ricercati e questionati, bensì vanno compresi dalla loro radice ontologica, dalla unica radice ontologica. Già nel 1904, durante i suoi studi specifici di scienze naturali, questa era per lui una questione centrale: come si arriva alla unità radicale dei fenomeni psicologici, della metafisica e della mistica? Così scrive: speravamo passo a passo di zu einer liberare bereits durch die prinzipielle Ausrichtung quegli accessi esperienziali storici ad una das Problem der ricerche und rechtens bestehenden Beziehungen filosofiche di principio. Il problema della relazione fattuale e al buon diritto esistente tra la psicologia generale, la metafisica e la mistica. La realtà metafisica di questo principio dell'unità, saputa in maniera irriflessa dall'inizio come un sapere previo, anche se non riconosciuta in primo luogo, lascia l'uomo nella pluralità dei suoi atti, lo lascia comprendere nella pluralità dei suoi atti in cui egli stesso si attua. Per questo schizzo generale, secondo Marechal, la metafisica della conoscenza aveva solo il ruolo della introduzione, condizionato dalla guerra e dalla malattia. La sua opera principale, Le Point de Départ de la Métaphysique, è rimasto a questo punto. Ma durante la sua vita, lo vediamo dai suoi scritti, e come comprendiamo da una lettera del 1942, due anni prima della sua morte, esiste solo una epistemologia naturale, quella che comprende l'esperienza generale. E per questa egli era attrezzato al meglio. Dopo l'ingresso nell'ordine dei gesuiti, studio della filosofia, della psicologia sperimentale, della psicopatologia. Nel 1905 dottore di scienze naturali e poi studio della teologia. Nell'anno della sua ordinazione pubblica un testo a propos du sentiment de présence et les profanes et les mystiques. Questo articolo, a giudizio del suo biografo, Millet, è la pietra angolare della sua opera, nella quale è già tracciata la linea della sua successiva ricerca. In quest'opera egli prende riferimento a William James, 1842-1910, il padre del pragmatismo. Nel suo Principles of Psychology del 1890 e Varieties of Religious Experience del 1902, James condivide l'idea che la mistica sia un sentimento della presenza che è totalmente scisso da ogni impressione sensitiva che di accompagnamento, e lo illustra con molti esempi. Molti dotti del tempo, fra cui Delacroix, si uniscono a questa opinione. Non invece Marechal. Egli pone la domanda opposta. Non sarebbe più facile, più logico, premettere il reale, l'affermazione e l'obiettivo, e poi indagare di come questi dati di fatto si dividano in irreale, in dubbio e in soggettivo? Nella prima parte di questo articolo, Marechal mostra che la conoscenza della realtà avviene nella dinamica dello spirito rivolto all'assoluto, che, come mostra nella seconda parte, giunge pienamente a sé nella contemplazione dell'essere stesso. La diversificazione della conoscenza umana e le sue differenti altezze costituiscono il punto di partenza delle sue ricerche, che più tardi lo condurranno nella storia della mistica cristiana ed extracristiana. Egli scopre le basi portanti di questa conoscenza così variegata e multiforme, ne persegue il problema della gradazione fino alla prima convinzione, che si trova nella soggiace della metafisica stessa, e scrive nei suoi études: questa intuizione dell'essere, che è tutto inaccessibile, per quanto sia inaccessibile lo sforzo della sola intelligenza, prolunga perciò il movimento iniziale. questo movimento iniziale lo si potrebbe, e vorrei così concludere questa prima parte, almeno ricordare quella idea dell'essere di Rosmini anche nel suo ruolo di essere iniziale. Passo ora alla seconda parte, uno schizzo della situazione del complesso problematico che i due hanno trovato nei rispettivi tempi, nelle rispettive epoche. Anche a questo proposito posso dare soltanto alcune indicazioni che mi sembrano necessarie, perché lo sviluppo del pensiero portante della metafisica della conoscenza di Rosmini e di Marechal è necessariamente, come già abbiamo accennato, collegato con l'apologia dello stesso. Correnti epocali che dalla visuale attuale hanno determinato la recezione di ciò che era tradizionale, lo sviluppo del futuro, non sempre si coincidono con lo status questionis come veniva presentato allora agli studenti. La gerarchia di ciò che fosse più o meno importante riceve sempre una nota personale nel corso dello sviluppo spirituale di una persona, una specie di filo a piombo, un compasso determina l'atteggiamento che può produrre consenso di senso su posizioni filosofiche. Spiriti superficiali si affidano senza problemi alle sensazioni dell'epoca, come dice Heidegger, mentre uomini riflessivi come Rosmini e Marechal si trovano proprio nel dissenso una sfida a provare ancora più a fondo la propria idea. E qui ripropongo i risultati di altri studi. La visione di Rosmini consiste in un antirazionalismo radicato in una spiritualità teocentrica. Contro la sopravvalutazione illuministica della ragione umana, propone un concetto di ragione eteronoma che è altrettanto coessenziale alla percezione sensibile dell'uomo, come anche per il cristiano la tradizione della rivelazione. La disputa dei metodi fra la scuola di Newton e di Wolff, che si spinge fino al XVIII secolo, Rosmini la percepisce come un'alternativa tra il metodo induttivo e deduttivo. Con il suo aggancio al pensiero regressivo e quello progressivo, supera l'alternativa metodica dell'illuminismo e sviluppa una concezione quadruplice di punto di partenza. L'influsso inizialmente troppo poco riflettuto del tradizionalismo francese e delle sue premesse ontologiste nella politica prima, 1822-1826, viene rielaborato e nella politica seconda trova chiarificazione e accesso nel concetto del neologismo forma della verità, e riprende posizione contro il neologo tedesco Julius Wegscheider. Nel nuovo saggio definisce poi un suo sistema di pensiero da prima sviluppato. Di fronte alle diverse forme di gioco dell'empirismo e sensualismo, perché premettono troppo poco, di fronte a Platone, Aristotele, Leibniz e Kant, perché si danno troppe premesse, si ha l'impressione che non vi sia alcuna corrente del suo tempo della quale Rosmini non abbia preso atto, analizzandola in maniera sottile, il che gli ha procurato anche, soprattutto nell'ambito tedesco, l'accusa di un logicismo concettuale razionalistico. Gustav Siebert. come dice Gustav Siebert. Die deutsche Philosophie erfüllt Rosmini anfangs mit Bewunderung, la filosofia tedesca zunehmend reserviert gegenüber. Coglie dapprima Rosmini con stupore, ma poi le si confronta piuttosto in maniera riservata. Nello studio di Kant, estate 1826, le riconosce meriti, come merito di aver fatto attenzione che il conoscere corrisponde al giudicare, altrimenti ha parole dure per Kant. Le citazioni di Kant che Rosmini propone fanno pensare che a fianco della traduzione latina di Pons avesse anche la prima traduzione italiana di Vittorio Mantovani, 1820, o anche a volte l'originale. E sappiamo che il tedesco, secondo Franz Grillparzer, di fronte al bosco curato dell'italiano rappresentava una foresta vergine. Kant ha reso piuttosto difficile al lettore l'ingresso e l'orientamento in questa giungla. Ciò che ha maggiormente impressionato Rosmini fu lo studio di Tommaso d'Aquino. Adolf Düros, nella sua questione se Rosmini sia stato l'effettivo iniziatore del neotonismo italiano e non il tentativo di un ricollegamento per ripristinare il pensiero moderno alla tradizione scolastica come sarebbe stato avviato in Piacenza, non è del tutto immotivato. È un dato di fatto che Rosmini abbia preferito per anni leggere Tommaso con i manuali antitomistici dell'Università di Padova, un continuo confronto con il fine di liberare, di rivitalizzare il sistema dell'Aquinata in confronto con le filosofie più recenti. Dalla visuale odierna possiamo dire che la ricerca intorno a Tommaso come filosofo dell'essere conosceva allora un suo inizio. I famosi commentari avevano piuttosto nascosto che rivelato questo aspetto. Importante per l'attuale stato della ricerca è che la concezione dell'essere dell'Aquinata nelle sue opere brevi, nelle quali prevale la filosofia dell'essenza, si muta radicalmente su una filosofia dell'essere. Con sempre maggior chiarezza Tommaso definisce l'essere come un actus essendi, come perfezionamento a cui tutto prende parte. L'interpretazione di Tommaso di Rosmini, almeno penso nel mio libro, penso di averlo mostrato nel mio libro, nasce ampiamente da questa concezione. Per ciò che riguarda lo stato della ricerca, lo status questioni, così come l'ha trovato Marshall, mi limito ad alcune indicazioni. Le Pointe de Départ riproduce lo stato questioni degli anni 20. La neoscolastica, scritta da Bochensky, non aveva potuto prendere largo piede. E Marechal si sente esortato nei primi quattro volumi a studiare gli alti e i bassi della fondazione della metafisica dagli inizi della filosofia greca fino all'idealismo tedesco. Nel volume sesto, dal titolo Le epistemologie contemporanee, era programmato ma non è più apparso. Dal punto di vista metodico non gli interessava, e lo ripete spesso al lettore nel proemio, non gli interessava una storia della scienza, dell'epistemologia, bensì piuttosto di mostrare nella storia gli elementi di una dimostrazione teoretica. Nei primi quattro volumi ciò avviene con una comparazione storica, nel quinto invece in maniera sistematica, e gli confronta tendenze e effetti lontani, e nel primo volume rimanda al fatto di come la critica della conoscenza degli antichi del tomismo aristotelico, in quell'epoca metafisica e scienza ancora armonizzavano e si compenetravano a vicenda. Egli rimanda anche al fatto che il problema del realismo necessariamente prosegue nel problema speciale della definizione della essenza oppure delle forme dell'essere. Questa delimitazione della essenza doveva, per adempiere alla propria funzione epistemologica, essere estremamente coerente e comprendere tutti i domini del reale ed essere comprensiva dal punto di vista sistematico e contenutistico. A un tale corso di problemi si doveva incontrare l'affermazione dell'assoluto metafisico. Non così in Tommaso. Per Tommaso era chiaro che alla formazione del concetto si pone come base una sintesi e non l'intuizione o l'analisi. Ai sensi, alla percezione sensoriale compete una parte notevole, come spiega Tommaso nella Summa delle questioni 84-86. Prescindendo da ciò, mostra nell'unità di anima e corpo l'inizio della metafisica e le categorie chiave per la questo passaggio sono excessio, comparatio e remozio. Marechal osserva una crescente dissoluzione di questa dottrina nel nominalismo dell'altardo medioevo e di seguito il sorgere di antinomie come quella fra la sensualità e la ragione ed altre tra il comprendere discorsivo e la ragione. Da queste antinomie diviene comprensibile la disputa epistemologica del tempo moderno e la contrapposizione tra empirismo e razionalismo ontologico. Questo contrasto domina la filosofia precantiana che egli rappresenta nel volume 2 di Le Point de Départ. Kant, come spiega nel terzo volume, cerca ancora troppo impacciato nelle premesse che hanno creato i suoi precursori di superare questa contrapposizione. Gli sarebbe riuscito di superare la prima antinomia, quella tra sensualità e ragione, non però la seconda tra ragione discorsiva e ragione in sé, intelletto discorsivo e ragione, se si prescinde da alcuni punti di partenza che rimandano oltre. Il superamento di queste frontiere, così spiega Marechal nel quarto volume, si prepara già negli scritti tardivi di Kant e si realizzano nelle successive evoluzioni di Kant verso l'idealismo tedesco, anche specie fra Fichte, anche se qui la sintesi non può essere vista come pienamente riuscita. Il quinto volume ritorna sulla dottrina della conoscenza atomistica aristotelica che avrebbe realizzato nella sostanza la sintesi e cerca ora questa sintesi di riguadagnarla nel metodo sistematico critico. Come Kant solleva il problema, così come Kant solleva il problema, la metafisica della conoscenza atomista viene sviluppata dal metodo sistematico critico e contrapposta ai problemi sollevati. Dal punto di partenza di Kant, nella linea di una critica immanente in applicazione del suo metodo filosofico trascendentale, non portato alle sue ultime conseguenze. Lo schema di Rosmini del nuovo saggio, dal quale solo poco si discosta in seguito, mostra una certa somiglianza. Intesi su seguentesi, Rosmini tratta i filosofi e li contrappone nel proprio punto di partenza, cioè l'idea dell'essere. Tra il nuovo saggio sull'origine delle idee di Rosmini e le pointe de part di Maréchal ci sono circa 100 anni di una risuscitata ricerca su Tommaso. Questa si è ancorata da più punti di vista a posizioni che contraddicono quelle di Rosmini e di Maréchal, ad esempio relativamente alla priorità dell'analisi o della sintesi, dell'astrazione delle species intelligibiles e naturalmente dell'idea dell'essere. Non occorre che qui entri più in dettaglio. Eppure Maréchal si trovava in una posizione di partenza molto migliore di quella che possa prevedere questa ricerca di Tommaso. Non era così chiaro però negli anni 20 lo spostamento di Tommaso d'Aquino da filosofo dell'essenza a filosofo dell'essere nelle sue ultime opere. Prima di passare a Rosmini e Maréchal come nuovi scopritori di Tommaso d'Aquino quale filosofo dell'essere e alla loro disputa con Kant, voglio dire ancora una parola sugli avversari di Rosmini come punto terzo della mia esposizione. Rosmini e Maréchal l'intero spettro degli descrivere l'intero spettro degli avversari non è necessario né utile. È interessante però il fatto che in una sorprendente unanimità certe tesi che Rosmini e Maréchal condividono e che appartengono alle loro posizioni filosofiche fondamentali sono state sottoposte a una critica più o meno acuta. E coinvolgo anche la critica postuma perché qui ci si rendono visibili delle linee di fondo che si vanno affermando e che al tempo in cui i due autori vivevano non erano ancora così chiare. Ad esempio nel 1853 quando Rosmini nel preliminare le opere ideologiche per la quinta edizione del nuovo saggio fa l'affermazione pesante, così mi vedo posto tra gli idealisti, razionalisti, panteisti, dogmatici, scettici e infine anche fra i criticisti. Da questa categorizzazione non accettabile se ne si distinguono comunque queste diverse ripartizioni, ne cito sei. Primo, che il concetto comune segue dal giudizio e non viceversa. Questo viene contestato. Secondo, che vi sarebbe un duplice a priori della conoscenza umana. Cito un brano dall'opera di Gustav Sievert. In Rosmini la tradizione suareziano-scotista, conforme all'apriorismo teologico, entra in una luce sinistra. E anche il punto di partenza di Maréchal viene caratterizzato come la metafisica logicizzata in sé contraddittoria e la a priorità sintetizzante del pensiero che si situa nel giudizio, ciò che presuppone come a prioristica la partecipazione all'idealità divina. Terzo punto, che l'idea dell'essere, in Maréchal il sapere previo dell'essere dinamico, in un certo senso può essere detto come divino. in Rosmini, questo è dedicato nel Danzig 3201 seguente. Quarto punto, che l'essere iniziale è comune a Dio e alle creature. Ugualmente contro Marechal si dice che la teoria della conoscenza dinamistica sarebbe nel suo intimo una prova dubbia dell'esistenza di Dio che rende impossibili altre prove, così De Vries nella sua teologia naturalis. Sia l'idea dell'essere di Rosmini come il dinamismo della forma universale dell'essere di Marechal conducevano ad un ontologismo nella conseguenza, ovvero, come vi ho detto, si mutarono in un idealismo ontologico oppure persistettero in posizioni possibiliste non superabili. Quinto punto, Rosmini pensa nell'ontologia, secondo l'ontologia essenzialistica di Suarez. Marechal avrebbe ricevuto importanti stimoli dalla tradizione suarezana nel senso di una filosofia del valore dell'essenza. Sesto, infine, sia Rosmini che Marechal avrebbero lasciato la tradizione di Tommaso e questa filosofia doveva apparire per Tommaso come, citazione, il lavoro di un architetto che distrugge la casa che è stata costruita da un altro e la ricostruisce secondo un altro, ex novo, secondo un altro progetto. Stichwort bei Lagebrink und auch einer bei ihm verfassten Dissertation. Questo è di Berlage. La serie delle accuse si potrebbe proseguire. Vorremmo però, abbiamo voluto soltanto mostrare come aspetti simili di Rosmini e Marechal siano stati criticati ugualmente. Si deve dunque partire dal fatto che questo fosse loro comune e questo è un è una prova negativa che ci permette di vedere le caratterizzazioni positive. Mi limito all'accento di Rosmini più che non quello di Marechal. Il quarto punto dell'esposizione, il punto di partenza della metafisica. Marechal ha limitato espressamente a ciò il suo lavoro, questi sono cinque volumi. Non voleva produrre una sistematica ontologica, lui aveva a cuore di portare il risultato della filosofia trascendentale kantiana in riferimento alla questione, in relazione alla questione è possibile la metafisica, in contrasto con Kant e rispondendolo con un sì chiaro. E inoltre gli interessava mostrare che questo sì può essere raggiunto con la filosofia trascendentale e si trova senz'altro nella linea di Tommaso d'Aquino e può essere dimostrato sulla base della sua opera. L'elaborazione di questo principio in una sistematica ontologica l'ha fornita la scuola di Marechal, nella quale rientrano nomi come Marc, Lonergan, Kored, Welte, Kored e Rana si sono applicati in un contraddittorio con Martin Heidegger per un approfondimento della dottrina dell'essere. Siebert, Fabro erano avversari eppure influenzati da Marechal. Marechal dà al quinto volume della sua opera Le Pont de Pal il sottotitolo Il Tomismo davanti alla filosofia critica. In base a questo motto viene costruita l'opera. Egli vede come previe due vie della critica, la metafisica degli antichi Letztere könnte auch als die Kritik des Erkenntnisvermögens bezeichnet werden. E la critica trascendentale dell'oggetto. L'ultima potrebbe anche essere individuata come la critica della capacità di conoscenza. Si cerca di vedere la metafisica atomistica in una unità di considerazione. Nel terzo libro egli traspone questa critica alla critica trascendentale della conoscenza. Si tratta di due fasi della medesima critica. Caratteristica per la conoscenza umana è il giudizio. Come dice anche Rosmini nel Nuovo Saggio, un dato di fatto ovvio. Come già per Rosmini, anche Maréchal si interessa del giudizio rilevante fondamentalmente ontologico, ontologico fondamentale nella forma della sintesi primitiva. Tal cosa esiste. La materia è la quiditas in particulari existence offerta nella sensibilità dei sensi. La sensibilità è essere a sé nella propria, essere presente a se stessi nella propria realtà dell'essere, la forma. La sensualità è entra materiale delle concrete in questa, come insegna Tommaso. Visus nullo modo potest in abstrazione cognoscere it, quod in concrezione cognoscit. Pensare invece è un apprehendere concretum in abstrazione. Le cose concrete sono, secondo Tommaso, incomplexa, così che la sintesi concretizzante, secondo Rosmini la sintesi originale, costituisce una forma primitiva del giudizio. La sintesi affermativa, in Rosmini il giudizio riflesso, corrisponde ad un enunziabile, un complexum, come dice Tommaso d'Aquino, e quindi ai giudizi affermativi comuni. Esso nasce dalla comparatio in complexi ad rem. Un giudizio non si esaurisce, secondo Tommaso d'Aquino, della sintesi di due concetti, ma l'elemento costitutivo proprio del giudizio è il riferimento della sintesi concretizzante nel soggetto predicato alla questione, alla cosa stessa, a un in sé come sintesi affermativa. Il pensare umano è un essere presente a se stessi come essere presso se stessi, ma con la necessità del essere posti di fronte a un altro. Questa concezione di fondo dell'intelletto umano ritorna nei concetti intellectus agens e intellectus possibilis. Intellectus agens non è la forza, un'immagine spirituale secondo il modo di ciò che viene visto coi sensi. L'intellectus agens è piuttosto la capacità di cogliere ciò che viene percepito e visto coi sensi come limitato nella sua coarctatio e quindi come concrezione attuata, e dunque esso universalizza la forma presa in possesso dal punto di vista sensuale e solo in questo senso scioglie e astrae la forma dalla sua concrezione materiale. L'intellectus agens è la capacità di procedere alla comprensione della singola forma a partire da sé, all'esterno, stagliandola dal campo di queste possibilità, ricorrendo al concepito come limitato. E Rosmini le attribuisce la stessa funzione. Tommaso parla di excessus, comparatio, remozio, quando si tratta dell'attuazione dell'oggetto metafisico. Il concreto, che nascesse da una sintesi concretizzante, da una mera sintesi concretizzante, se questo soltanto potesse avvenire, non è ancora un oggetto, perché ogni concezione pensata, se sia generale oppure singolare, e il concetto generale è sempre un qualcosa che è saputo rispetto a un qualcosa di possibile. Qual è ora la forma della sintesi affermativa che come tale sta alla base anche della sintesi affermativa? È, secondo Maréchal, l'essere di per sé, l'essere assoluto, nel senso che il contenuto dell'affermazione si riferisce alla cosa. Ciò che si intende nel giudizio, la forma predicato, si verifica già di per sé, ovvero indipendentemente dall'attuazione della sintesi affermativa, una complexio attuata da sempre è la premessa all'assegnazione che giudica. Essa viene riconosciuta come esistente soltanto per affermazione successiva. Con altre parole, il sapere previo astrattivo si riferisce a ciò che viene sperimentato come limitato nella complexio. Sulla questione di cosa sia questo an sich sein, questo essere in sé, Tommaso risponde l'esse. La deduzione tomistica trascendentale che la sintesi affermativa va sempre, si riferisce sempre a un per sé, Maréchal la trova in quei passi dove Tommaso d'Aquino determina la riflessione con un risultato che essa manifesta la proportio eius ad rem nell'atto. Pensare si riferisce all'essere, non a frasi in sé valide. Il per sé che Tommaso conosce è l'essere reale. Perciò soltanto all'intelletto eternamente sussistente è possibile un oggetto eternamente esistente, perciò la verità eterna, non però un soggetto finito. All'intelletto finito il sein, l'essere, è possibile soltanto come una qualcosa da premessa. L'uomo, come essere limitato nell'unità di corpo e anima, è rimandato alla concrezia della sensualità con il suo limite, col suo potere limitante per la pienezza che il sé avrebbe in sé. La millut quod est maximum formale omnium est ipsum esse, dice Maréchal, citando Tommaso. Le realtà essenziali sono soltanto l'espressione delle limitazioni di questo in sé illimitato e dinamico essere, riferendosi a un determinato grado di potenzialità dell'essere, in questo o quell'altro ens. Così sono tutti riferiti all'esse, all'unico esse. Circa il riassunto di Maréchal nel quinto volume, diciamo, il moderno agnostico è sconfitto e gli dice il canzianismo è contraddetto, le antinomie circa mondo, anima e Dio si sciolgono, l'agnosticismo della critica della ragione pura si mostra come infondato. E se si scioglie questo nodo, ovvero sia l'essere nello schizzo, oppure se si ha di fronte l'idea dell'essere, si scioglierebbero queste antinomie. Mi fermo con questa conseguenza di Maréchal e ringrazio per l'attenzione.